Europa 24. In apertura le parole del commissario europeo Dimitris Avramopoulos su Twitter. La crisi umanitaria raggiunge il suo culmine in Grecia. Gli stati membri accettino con urgenza i ricollocamenti. È il momento di attuare. Intanto il ministro dell'interno tedesco Thomas de Maizière parla del prossimo vertice europeo sull'emergenza profughi. Non voglio dare l'impressione che sarà una passeggiata, ma sono molto fiducioso che otterremo un accordo sostenibile e solido per tutte le parti. Percorsi solitari non possono risolvere la crisi dei profughi in modo duraturo e vanno sempre solo a carico di altri singoli stati. Una soluzione duratura la otteniamo soltanto se europea, coordinata e comune. La Francia proporrà lunedì all'Unione Europea di decretare sanzioni contro i responsabili politici che bloccano la formazione di un governo di unità nazionale in Libia. Lo ha detto in TV il ministro degli esteri francese Jean-Marc Ayrault. Adesso non si può più aspettare, è abbastanza, ha aggiunto, denunciando quanti si mettono di traverso al processo politico per ragioni di interessi individuali. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha moralmente e politicamente ragione ad aprire le porte ai rifugiati siriani, ha detto ancora Ayrault. Francia e Germania hanno un obiettivo comune, che è quello di salvare Schengen, e per salvare Schengen bisogna proteggere le frontiere e controllare chi entra, chi ha diritto d'asilo e chi no. Ed ora parliamo di fondi europei. A sorpresa, l'Italia li ha spesi tutti. Manca ancora la certificazione di Bruxelles, ma con un inatteso colpo di reni l'Italia è riuscita a spendere tutti i fondi europei 2007-2013. Secondo i dati pubblicati dalla Ragioneria Generale dello Stato e dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, al 31 dicembre 2015, ultima data utile per utilizzare le risorse, era già stato speso il 93,5% dei finanziamenti a disposizione, pari in tutto a quasi 46 miliardi di euro. Ma c'è ancora tempo fino a dicembre prossimo per presentare le fatture emesse entro il 2015, perciò l'agenzia, che dipende direttamente da Palazzo Chigi, stima che si possa arrivare agevolmente al pieno utilizzo dei fondi strutturali, senza incorrere quindi nella cancellazione dei finanziamenti, come invece tutto lasciava immaginare. C'è ancora qualche regione a rischio, come la Sicilia, ma c'è anche il caso virtuoso della Calabria, che ha recuperato tutto il ritardo grazie agli investimenti sulla banda larga e nel piano per riqualificare l'edilizia scolastica. È un risultato insperato solo pochi mesi fa, frutto non di inesistenti bacchette magiche, ma del lavoro di tanti anonimi funzionari nelle regioni e nell'amministrazione centrale. Dimostra che anche le svolte più difficili sono possibili se gli obiettivi sono definiti, gli strumenti adeguati e la copertura politica assicurata. Se ne tragga profitto dunque per il periodo 2004-2020, partito in ritardo, ma ora forse in grado di decollare. Giuseppe Chiellino per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Parlamento europeo vuole limitare l'uso di antibiotici in allevamento. Combattere la diffusione delle malattie animali, specie quelle più pericolose per l'uomo, è doveroso, ma senza abusare degli antibiotici. Il grave problema della crescente resistenza agli antibiotici da parte dei superbatteri ha spinto il Parlamento europeo a limitare l'uso dei farmaci antimicrobici esistenti. La proposta prevede di aggiornare la normativa europea in materia di farmaci ad uso veterinario. Il Parlamento chiede in particolare di vietare il trattamento antibiotico collettivo e preventivo degli animali, limitandone l'uso solo quando giustificato su un singolo animale ammalato e non su tutta la mandria. François Grosstead, del gruppo del Partito Popolare Europeo. Se un animale si ammala, dice la Grosstead, va isolato e bisogna attuare buone pratiche di allevamento evitando contaminazioni, ma soprattutto evitando di dare antibiotici a tutti gli altri animali. La lotta contro la resistenza agli antibiotici deve iniziare quindi anzitutto nelle aziende agricole, limitando il trattamento di massa casi veramente particolari. Quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che il mondo rischia di sprofondare in un'era preantibiotica, dove superbatteri resistenti potrebbero causare ogni anno più morti del cancro, già nella sola Europa si registrano oltre 25.000 decessi, è giunto il momento di intraprendere un'azione forte per risolvere il problema alla radice, promuovendo soprattutto la creazione di farmaci di nuova generazione. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.